24. La storia. C'era una volta in Italia, più di 30 anni fa, un gioco di società che si chiamava Corteo. Ed era il gioco più veritiero che fosse mai stato concepito, perché riproduceva uno scenario che i giocatori avevano vissuto tutti i giorni per anni sulla loro pelle. Corteo era unico nel suo genere, era un vero e proprio gioco di simulazione, un'immersione totale e un'allusione spudorata alle questioni politiche ed esistenziali che per un intero decennio, quello degli anni 70, avevano animato l'immaginario collettivo di molti giovani italiani. All'interno di un centro metropolitano non ben identificato, il giocatore Corteo andava alla conquista dei suoi obiettivi politici, mentre il suo avversario, il giocatore Potere, faceva di tutto con le sue forze dell'ordine per impedirglielo. Lo scontro era violento. Il giocatore Corteo costruiva barricate e lanciava sanpietrini e bottiglie Molotov, mentre il giocatore Potere rispondeva con l'uso dei blindati, cariche selvagge e lancio di lacrimogeni. Si giocava per ore e alla fine vinceva il Corteo se riusciva a raggiungere il maggior numero di obiettivi con il minor numero di dimostranti arrestati, oppure vinceva il Potere se riusciva a limitare i danni e arrestare il maggior numero possibile di manifestanti. Fra le pedine eliminate c'erano anche morti e feriti, ma di loro non c'era traccia alla fine. Erano morti per gioco, anche se a quei tempi, di politica e nei cortei, si moriva davvero. E di politica si moriva davvero in quegli anni. Oggi a Mix24 raccontiamo questo viaggio nell'ombra, un viaggio doloroso ma necessario, per capire e condividere la strada della violenza percorsa da quei ragazzi negli anni 70. È un vicolo cieco e l'esito è devastante per tutti, qualunque siano state le ragioni di partenza. Il nostro è un viaggio per ricordare quei ragazzi morti troppo giovani dall'una e dall'altra parte, per ricordare le vittime di un'epoca impazzita che ha trasformato in tragedia le speranze e in morte i sogni di un'intera generazione. 69 morti e più di 1000 feriti, 7.866 attentati e 4.290 episodi di violenza. Sembra un bollettino di guerra e invece è il bilancio di una delle stagioni politiche più drammatiche della Prima Repubblica, quella che negli anni 70 ha visto contrapposti estrema destra ed estrema sinistra, il rosso e il nero. Mai, come in quegli anni, questi due colori hanno finito per dividere ed accecare centinaia e migliaia di giovani di più generazioni che si sono odiati e si sono combattuti senza esclusione di colpi, trascinando il nostro paese fino alle soglie di una guerra civile. Guido Salvini. In quell'epoca in cui vi erano forti contrapposizioni, era l'epoca della guerra fredda, dello scontro tra i blocchi, la persona che aveva diverse idee dalle tue non era semplicemente l'avversario politico, ma era il nemico politico che andava colpito. Questo ha reso possibile il fenomeno della violenza politica a destra e a sinistra, diverse tra di loro, ma unite da questa mancanza di rispetto dell'idea di persona nell'avversario politico. La memoria. 69 vite spezzate, 69 vittime, di cui resta traccia in qualche lapide e soprattutto nel ricordo dei familiari e degli amici. Sopravvive così la memoria del sangue versato, ed è una memoria resa ancor più amara dal fatto che molti di quei morti non hanno mai avuto giustizia. Anche per questo è una memoria che dura e che merita rispetto. Era ancora il libro di Marco Filoppà, La banda Bellini. Sono innumerevoli fatti di sangue che contraddistinguono quella folle stagione politica. Uno su tutti esprime l'aberrazione cui si può arrivare in nome dell'odio. Il rogo di Primavalle a Roma. È il 16 aprile 1973. A morire sono i fratelli Stefano e Virgilio Mattei. Ce ne parla la madre, Anna Mattei. Come si fa a dimenticare due figli? Uno di 10 anni, uno di 22. Dolce. Da quella notte per me non c'è più nessuno, io non devo perdonare nessuno. Perché devo perdonare? Perché li devo pure ringraziare per caso, no? Roma, quartiere Prima Valle, 16 aprile 1976, ore 3. Un comando di potere operaio si dirige verso via Bibbiena 6, dove abita la famiglia di Mario Mattei, segretario della sezione del Movimento Sociale. Al terzo piano, sotto la porta dell'appartamento, vengono versati diversi litri di benzina. Ore 3:10. Il comando dà fuoco alla benzina. A raccontarlo ancora la mamma, Anna Mattei. Non gli racconto perché non lo so. So solo che sono scesa, ho salvato prima la femmina. Poi lui, che stavano attaccati alle sbarre della portafinestra, diciamo, no? E strillavano aiuto. L'inquilino di fronte buttava acqua, diviso. Ce l'ha presente la parabola di Gesù, che si divide il mare. Così è successo da me. Sono riuscita a scappare in sottoveste. Ho visto tanta gente, non capivo che succedeva. Mio marito probabilmente se ne sarà reso conto, se ha cercato di salvare i figli. No, cercato, l'ha salvati, aiutati da quello di sotto, io ho aiutato. Virgilio Mattei rimane intrappolato nelle fiamme con il fratellino Stefano. Ci sono voluti gli anni per ricordarsi determinate cose vere. Un cartello sotto il portone dove diceva: giustizia proletaria è fatta a me, a mio marito, con sei figli. Nel rogo di Prima Valle sono stati riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva Achille Lollo, Manlio Grillo, Marino Clavo. Lollo, Grillo e Clavo sono fuggiti all'estero da tempo. Ce ne parla Ignazio La Russa. Quella morte è stato giudicato come omicidio colposo. L'omicidio colposo è l'incidente stradale. Ecco, aver ucciso due ragazzi che dormivano a casa loro, andando dietro la porta, bruciando l'abitazione, i giudici lo considerarono omicidio colposo. Ed ecco perché la pena inflitta ha consentito ora che ci fosse la prescrizione. La condanna per Lollo, Grillo e Clavo è caduta in prescrizione con sentenza del 28 gennaio del 2005. Nel febbraio 2005 la Procura di Roma ha deciso di riaprire il caso. Oggi a Mix 24 ricordiamo le vittime di un odio politico che ha segnato in maniera drammatica il nostro paese. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia degli anni di piombo e delle violenze che si sono abbattute in nome di una forte ideologia in tutto il nostro paese. È nel rogo di Prima Valle, il 16 aprile del 76, che muore ogni speranza di liberare lo scontro tra gli opposti estremismi dalla spirale dell'odio. Quelle fiamme dimostrano infatti che si è innescata una degenerazione senza più limiti né tabù. Ce ne parlano il giornalista Adriano Sofri e il fondatore dell'MSI Pino Rauti. La violenza fu una componente importantissima, dopodiché ci furono tentativi anche qui di correggere e moderare questo rilievo che diventò sempre più primario, tristemente, per esempio di distinguere addirittura fra la parola violenza e la parola forza, ripudiando il concetto di violenza. Ma si trattava di un'eredità molto antica, cioè di un'eredità della politica che qualunque forma avesse assunto dal risorgimento, per così dire, dalla politica patriottica nazionale a quella quella sociale, del socialismo, della rivoluzione sociale e così via, aveva sempre avuto al centro questa idea nobile della violenza. Ma all'inizio degli anni 70 ci fu questo scadimento, o se vogliamo questa riduzione alla fisicità, allo scontro fisico. Su questo poi ovviamente si inserì, non poteva non inserirsi, un certo retroterra culturale, appunto in termini di bella morte, ma ci fu anche nel nostro ambiente, e devo dire che a sinistra questo è stato poi riconosciuto lealmente, ci fu anche lo sforzo di evitare che ci avvitassimo tutti in questa situazione, che scivolassimo tutti nello stesso baratro, perché baratro poi divenne. Destra e sinistra si fronteggiavano da sempre nell'arena politica nazionale, ma mai, come negli anni 70, questi due colori sembrano rappresentare due visioni opposte della vita e del mondo, modi diversi di pensare, di concepire l'amore, il sesso, l'amicizia. È diverso il modo di rapportarsi alla violenza, che però accomuna entrambi gli schieramenti. Ce ne parlano Franco Russo di Rifondazione Comunista e Marcello De Angelis del Movimento Sociale. Diciamo che noi il discorso della violenza l'abbiamo visto sempre come un discorso di massa, cioè durante le manifestazioni, di difesa, di sanzione, come dire, di un potere simbolico che tu non mi far passare di qua e allora ti lancio 10 bottiglie Molotov e ti dimostro che non accetto supinamente la tua violenza. Però diciamo non c'era nessuna spinta o ricerca dello scontro fisico, questo proprio è fuori invece dal DNA dei movimenti di cambiamento e di sinistra. A destra si partiva con una mentalità perdente, cioè il paradosso è che l'utilizzo della forza, mentre l'utilizzo della forza a sinistra era propedeutico a una strategia rivoluzionaria di conseguenza ottimistica volta verso il successo e verso il futuro, e che tra l'altro era anche bene o male orchestrata, cioè nel senso che non si faceva nei limiti del possibile, non si faceva l'atto di violenza fine a se stesso, bensì era inserito in una strategia. A destra strategie non ce n'erano vere e proprie, e bensì c'era un gruppo di persone, un numero più o meno ampio di persone che individualmente o comunque in gruppi ristretti, ma poi era tutto riconducibile alla persona, si mettevano in gioco con una prospettiva che era una prospettiva pessimistica, cioè nel senso la mia aspettativa è la morte onorevole. I fascisti, tutti sono fascisti per voi, e distruggiamo di qua, incendiamo di là, impicchiamo, appendiamo, e questa sarebbe la società giusta che vorreste costruire voi con la vostra rivoluzione? Per voi o si è compagni o si è topi di fogna, e avete la faccia tosta di parlare di libertà. Ma qual è la vostra libertà, se qui nessuno può dire una parola che lo intimorite? Anzi, che dico? Gli va bene se non lo riempite di botte. Così le parole di Alessandro Preiser nel libro A Vene Selvatiche. A lanciare per primo l'allarme su una degenerazione del clima politico è il prefetto di Milano, Libero Mazza. Nel 1971 denuncia entrambi gli estremismi di destra e di sinistra, uniti nell'attacco al cuore dello Stato. Ma quasi nessuno gli dà retta, nemmeno nei palazzi del potere. Ce ne parlano Mario Cervi e Giampaolo Panza. Quello che diceva il rapporto Mazza era molto inquietante. Diceva che a Milano esistevano circa 20.000 estremisti, i quali suscitavano disordini, i quali erano muniti di armi improprie, i quali procedevano a violenze e procedevano impuniti a queste violenze perché sapevano di poter contare anche sulla benevolenza e della popolazione e anche in qualche modo delle autorità. Ogni giorno accadevano fatti di violenza in Italia, in tutte le città italiane, non credo sia possibile censirli, conosciamo i picchi di questa violenza, gli episodi più drammatici, quelli che sono avvenuti soprattutto nelle grandi città, Roma e Milano, tanto per cominciare, ma anche Torino, anche Venezia, anche Napoli. Ma quello che accadeva per esempio nelle città di provincia nessuno l'ha mai raccontato dopo, ed è stata un'Italia oggi impensabile che farebbe una paura pazzesca, come se una specie di Bin Laden sotterraneo vivesse dentro l'animo di centinaia di migliaia di giovani assolutamente normali e li spingesse a fare del male agli altri ma anche a se stessi. All'inizio ai funerali c'erano solo lacrime e silenzio, che rinsaldavano le rispettive comunità e davano forza ai pugni chiusi e alle mani tese. Con il passare degli anni sono arrivati gli applausi, gli slogan urlati a squarciagola, segno che la rabbia e l'odio avevano contaminato anche il dolore. Roma, 1 marzo 1968. Alle 10 del mattino parecchie migliaia di dimostranti si radunano in Piazza di Spagna per protestare contro l'intervento delle forze dell'ordine che sono entrate nell'università occupata. Il corteo si dirige verso Valle Giulia, dove poliziotti armati di manganello hanno circondato la facoltà di architettura. Le due parti si squadrano per pochi minuti. Subito dopo iniziano gli scontri. La battaglia dura diverse ore e il bilancio ufficiale degli scontri, ai quali prendono parte 3.000 dimostranti e 2.000 poliziotti, è di 228 fermi e 211 feriti, di cui 158 tra le forze dell'ordine. Bene, c'era una presenza militante e militare fascista dentro le università e dunque quando comincia il 68 è inevitabile che per poter respirare, resistere, potersi radicare, lo scontro con i fascisti è stato immediato, insomma. E culmina con una cacciata dei fascisti, lenta ma progressiva, insomma, cioè, prima gli asserragliati eravamo noi, insomma. Poi il movimento cambia i rapporti di forza, proprio numericamente, quantitativamente, improvvisamente diventiamo molti di più di loro e dunque l'antifascismo diventa un connotato, insomma, che serve per crescere. Così Henry De Luca. Non c'è più tempo per le parole e non a caso, con gli steccati ideologici che si fanno sempre più alti, scocca l'ora delle mazze e dei bastoni. Lo si capisce il 16 marzo 1968 all'Università di Roma, quando il movimento sociale richiama all'ordine i militanti più confusi. Ce lo racconta l'allora senatore della Giovine Italia, Domenico Gramazio. Allora io ero il presidente della Giovane Italia, quindi ricordo quelle riunioni quando si scelse che all'università bisognava arginare la contestazione giovanile perché la contestazione giovanile era di sinistra. A guidarli c'è il segretario Giorgio Almirante, seguito dallo Stato Maggiore del Movimento Sociale, ancora Domenico Gramazio. E la presenza lì, in quella manifestazione all'università contro la contestazione giovanile di tutti e tre i parlamentari eletti a Roma nel Movimento Sociale Italiano fu una chiara scelta che una parte della gioventù del Movimento Sociale non comprese, infatti abbandonò il Movimento Sociale per confluire in alcuni gruppi cosiddetti di contestazione e non si riconobbero più nelle organizzazioni giovanili dell'allora destra del Movimento Sociale. Con altri amici? Noi fummo il gruppo che ci mettemmo sui gradini del rettorato. Non partecipammo agli scontri che ci furono e con dolore e amarezza assistemmo a uno scontro che non aveva nessun senso comune. Giorno, da una parte e dall'altra, c'erano persone venute all'università solo per lo scontro fisico. Così Teodoro Buontempo. I fascisti asserragliati nella facoltà di legge gettano banchi e sedie dalla finestra. Ce lo racconta il docente della Sapienza, Angelo Bolaffi. Noi andammo sotto giurisprudenza e loro buttarono dalla finestra anche i banchi interi e lì Scalzone fu, si ruppe la spina dorsale. L'idea di usare la violenza era lontanissima dalla sinistra, invece la destra, diciamo lo squadrismo, era ancora l'ideologia della destra. La stessa immagine di Almirante, in cima alle scale di giurisprudenza. Ma quando mai Berlinguer o Togliatti sarebbe andato davanti? La piazza. Non c'è solo morte e violenza nelle piazze italiane. C'è anche gioia e voglia di vivere, di una generazione appassionata che è convinta di poter cambiare il mondo, ma il fuoco che la anima sfugge ben presto ad ogni controllo. C'è chi ci soffia sopra, infatti, e le scintille, si sa, vanno in tutte le direzioni. È in ogni caso la violenza a spazzar via di colpo i sentimenti migliori di quella generazione. La violenza cieca di un'esplosione assordante. Sono le 16:27 del 12 dicembre 1969. Sentiamo Marco Boato. Prima e dopo il 12 dicembre lo scenario cambia completamente. È come se dei movimenti che si erano cimentati con il cambiamento, con la trasformazione, con la contestazione, anche con la rivoluzione, ma una rivoluzione più di tipo culturale che di tipo politico, si siano poi dovuti misurare in modo traumatico con la realtà delle stragi, con la realtà della morte, con la realtà della violenza, di una violenza innominata, anonima, non rivendicata. Inizia qui, in questi locali devastati e sporchi di fumo, la storia politica degli anni 70, con l'escalation di sangue che l'ha contrassegnata. A Piazza Fontana muore infatti un'Italia spensierata e ne nasce un'altra, decisamente più cupa. Un'Italia di lutti e misteri, in cui la violenza diventa il pane quotidiano di migliaia di studenti. Si comincia in quegli anni a morire di politica. 132 morti, di cui nessuno oramai ricorda più i nomi, sono le vittime delle sei stragi che hanno insanguinato l'Italia negli anni 70. Piazza Fontana, Gioia Tauro, Questura di Milano, Piazzale della Loggia, Italicus, Stazione di Bologna. Questi morti aspettano ancora di sapere chi li ha uccisi e perché, a più di 40 anni di distanza, di inchieste giudiziarie che si contraddicono l'una con l'altra, l'unica cosa certa è che sono morti. Mix 24, la storia. Rieccoci su Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia delle stragi che hanno colpito l'Italia negli anni 70. È dopo la strage di Brescia del 1974 che parte in tutta Italia una campagna per mettere fuori legge l'MSI, a lanciarla all'estrema sinistra, ma la condividono ampi settori della sinistra tradizionale. Si inaugura così una stagione tra le più funeste, quella dell'antifascismo militante. Ce ne parla il giornalista Giampaolo Pansa. È un'espressione bestiale, perché essere antifascisti significa essere democratici, e dichiararsi antifascisti equivale a dichiararsi democratici, e dichiararsi democratici equivale a dichiararsi antifascisti, come dichiararsi anticomunisti, diciamola questa cosa. E quindi cosa c'entra il militante? Un democratico che milita, che vuole far vivere la democrazia, deve spaccare la testa a Sergio Ramelli solo perché è uno studente di destra? O deve pensare che uccidere un fascista non è reato? O che se c'hai un celerino sotto mano, se lo accoppi, meriti una medaglia al valor civile, se non al valor militare? Sono atteggiamenti mentali e slogan e convinzioni, evangeli neri, non neri perché fascisti, neri perché, o rossi perché rossi del sangue di tanta gente, che visti molti anni dopo suscitano soltanto repulsione e una domanda: ma come è stato possibile? Invece è stato possibile, e non è detto che non si ripeta. D'altra parte, in quegli stessi anni il bubbone della violenza scoppia anche a destra, in circostanze altrettanto drammatiche e laceranti. Siamo a Milano ed è il 12 aprile del 1973. A raccontarlo Maurizio Murelli, militante di estrema destra. Il 12 aprile è nasce in realtà il giorno prima. Un amico mi chiese di accompagnarlo in un posto, in un prato, alle periferie di Milano, e furono recuperate queste tre bombe a mano RSCM. Per il giorno dopo il movimento sociale ha indetto una manifestazione contro la violenza. Fra gli oratori previsti spicca il nome di Ciccio Franco, leader dei Boia Chimolla. Ancora Maurizio Murelli. Il movimento sociale italiano di allora stava perdendo l'appoggio della militanza. Non riusciva più a tenere comizi, ormai da più di un anno e mezzo a Milano non riusciva a tenere comizi. Quindi i ragazzi si allontanavano, andavano su posizioni sempre più radicali, e quindi c'era bisogno di e questa era la funzione di quel 12 aprile, questo era il motivo per cui arrivò Ciccio Franco. Il comizio si sarebbe fatto a qualsiasi costo, lo volessero o no il prefetto e quant'altri. Questa era la parola d'ordine per quanto riguardava il movimento sociale italiano. Il comizio doveva essere in Piazza Tricolore, e quindi ci si trova lì ai bastioni di Piazza Venezia. Prima di scendere dalla macchina io dissi se qualcuno aveva la rivoltella in tasca di lasciarla in macchina. Io stesso ce l'avevo e l'abbiamo messa sotto il sedile. E lì mi sono ricordato che c'erano queste tre SRCM. E in quel momento si è avvicinato Loi, che ne ha chiesta una. In tarda mattinata il questore revoca l'autorizzazione alla manifestazione. Le forze dell'ordine intervengono per disperdere i manifestanti. Sento l'esplosione, io intuisco che è stata la bomba a mano lanciata da Loi. Di volavano pietre, bottiglie, sassi, spranghe, pezzi di legno, volava di tutto. E probabilmente i poliziotti tenevano le braccia alzate per ripararsi. Questa bomba fu una traiettoria a parabola, è andata sul petto della gente, che l'ha pressata contro il petto e praticamente lo ha ammazzato. Da un punto di vista diciamo umano, il fatto di essere comunque coinvolto nel dolore che ho provocato alla madre, certo, non è una cosa che si può far passare così, però questa è anche la vita, cioè ci sono uomini che vanno a fare i poliziotti e muoiono, ci sono ragazze che tentano la rivoluzione e muoiono, ci sono madri che piangono dei poliziotti e ci sono madri dei ragazzi ammazzati da poliziotti che muoiono. Il giovedì nero di Milano sembra la conferma definitiva della teoria degli opposti estremismi di cui aveva parlato il prefetto Mazza e che ora vengono denunciati a gran voce dai banchi del governo. Ma c'è anche chi contesta la validità di quella teoria e lo dichiara, come Pino Rauti. Certo, facilitò il potere democristiano, perché mostrare un'Italia che la cui scelta si poneva in termini di ultrasinistra o in termini neanche di destra ma di ultradestra autorizzava la permanenza del governo democristiano. Seguì a questa utilizzazione politica, seguirono degli atti operativi, delle iniziative organizzative in termini di servizi segreti, di infiltrazione, di provocazione. Qualche cosa indubbiamente c'è stato, ma non è emerso nella successive vicende giudiziarie. Tutto questo ha avuto scarsi riscontri. Resta, almeno da parte mia e non solo da parte mia, questa impressione solida che quella teoria fosse una prassi e che quella prassi serviva al mantenimento ulteriore del regime democristiano. Noi vivevamo e abbiamo sempre avuto nella convinzione di un grande rigore nei confronti, chiamiamo, del centrismo, cioè di non scivolare né in una direzione né in un'altra direzione, perché ora che certamente fossero estremismi era vero, che fossero opposti era vero, e non è che ce le fossimo inventate. Avete sentito Giulio Andreotti? La morte dell'agente Marino sembra inoltre mettere in discussione per la prima volta la convinzione diffusa a sinistra che ci sia una connivenza oggettiva e soggettiva tra estremisti di destra e le forze dell'ordine. Ce ne parla il magistrato Guido Salvini. Quel giorno si ruppe quella sorta di accettazione o di disponibilità dell'estrema destra a essere come un supporto delle forze dell'ordine nella lotta contro il disordine, la sovversione e il pericolo comunista. Per la prima volta la destra attaccò la polizia, ma nello stesso tempo questo fu una manifestazione di debolezza che la ghettizzò e la portò a una situazione in cui non era più in grado di porsi come alleata di certe forze dello Stato nella lotta contro la sovversione comunista. Le date. C'è un calendario parallelo che sembra scandire gli anni 70. Un filo rosso e nero che collega le maggiori esplosioni di violenza e gli anniversari politici più importanti e che si trasforma in un'assurda cabala della morte che avvelena gli animi e genera nuovi lutti, come se per commemorare degnamente i propri caduti si fosse obbligati a dare la morte ad un nemico. Si tratta della legge reale, che amplia il ricorso delle forze dell'ordine alle armi. La cura si rivela per molti aspetti peggiore del male. E le strade d'Italia continueranno a macchiarsi di sangue. Giulio Andreotti. La polemica maggiore si è fatta sulla questione del famoso fermo di polizia, cioè la possibilità di tenere 48 ore fermo prima della convalida da parte dell'autorità giudiziaria. Dinanzi ad una contestazione che andava in radice, si creò quello che era il fronte della resistenza, chiamando poi della fermezza, ma non c'era un'altra strada. L'altra strada significava veramente abdicare. Erano questi gli umori collettivi del 77, quando una nuova grande contestazione parte dalle università e trascina con sé ampi strati di proletariato urbano e giovanile. Nasce così il movimento del 77, foriero di speranze, così come era stato il suo padre, il 68. Ma la piazza ormai è diversa e basta un cerino per infiammare tutta la prateria. Ce ne parla Marco Boato di Lotta Continua. Il 77 è il secondo ciclo di un grande movimento collettivo che si verifica nel nostro paese, all'interno del quale si scontrano proprio due anime. C'è un'anima che potremmo definire creativa del 77, quasi di rinnovamento di costumi, di valori, di espressione, anche un'anima fortemente innovativa, e c'è un'anima invece violenta. E alla fine è prevalso questa seconda. Sta nel prendersi la merce, sta nel prendersi la mano, nel tirare i San Pietrini nell'incendio di Milano, nelle spranghe sui fascisti, nelle pietre sui gipponi. L'ultima manifestazione a cui io assistetti senza partecipare, mi decise definitivamente che il mio tempo era finito. C'erano dei ragazzini di 15 anni che giravano con dei pistoloni più grandi di loro nei cortei del sabato, quelli di Cossiga col K contro il movimento e così via. Dunque anche lì una degradazione molto rapida, di una delle cui responsabilità sta esattamente in quel culto dei caduti e in quel culto dei prigionieri, di cui le persone responsabili non ebbero abbastanza consapevolezza. Avete sentito Adriano Sofri. Nella grande prateria del 77 l'estrema destra resta ai margini, isolata. Ma lo scontro di piazza si è fatto così violento che contagia presto anche i neofascisti. L'episodio più eclatante è a Roma, quando viene ucciso il militante di sinistra Walter Rossi. È il 30 settembre del 77, a raccontarlo il suo amico, presidente della Fondazione Walter Rossi, Osvaldo Amato Maurino e Cristiano Fioravanti, killer di Walter Rossi. Eravamo un gruppo di giovani che stavamo venendo, risalendo via Medaglie d'Oro, distribuendo un volantino per protestare e denunciare il ferimento avvenuto la sera prima di una nostra compagna. Eravamo certi che gli aggressori della sera prima venivano dalla sede del MIS di Viale Medaglie d'Oro. Allora, la sezione del MIS stava all'altro incrocio, dove c'è il secondo semaforo. Lì di fronte si vedeva, erano le 8 di sera, era già abbastanza buio, però notammo che scendeva il blindato della polizia molto lentamente e senza luci. Dietro al blindato si vedeva un gruppetto di persone. Mentre noi cominciavamo ad allontanarci e io personalmente continuavo la mia attenzione sul blindato, abbiamo sentito degli spari. Subito dopo ho sentito un urlo di qualcuno che gridava: hanno ferito Walter. Qui vidi il corpo di Walter che era diverso, c'era già qualche nostro compagno accanto a lui. Mi resi conto immediatamente della gravità della ferita, perché il proiettile aveva colpito in fronte. Quello che ricordo assolutamente è che ci fummo caricati dalla polizia. Riuscimmo a fermarli e urlandoli gridammo di chiamare immediatamente ai poliziotti: chiamate un'ambulanza, fate venire qualcuno. E mi ricorderò sempre una risposta di uno di loro: non abbiamo la radio, non possiamo fare nulla. Walter morì pochi minuti dopo, me ne resi conto e se ne resero conto anche i poliziotti. Alcuni miei compagni hanno visto chi ha sparato, era un gruppetto di 4-5 fascisti. Due persone si staccarono da questo gruppetto, fecero 2-3 metri sulla strada, sull'asfalto, uno dei due prese la mira e sparò. Chi li ha visti nel momento dello sparo li descrisse come uno mingherlino secco e alto, un altro un po' più tozzo e un po' più basso. Queste due persone sono state identificate, Uno era Alessandro Librandi e un altro Cristiano Fioravanti. Io e Alessandro eravamo armati e niente, è successo, ma penso che nessuno se ne sia accorto fin quando non è... perché la distanza era molto la distanza tra noi i compagni. Alessandro ha sparato qualche colpo, la mia si inceppò subito, era una pistola che mi aveva dato Sparti, se non sbaglio una 7.65, però fece cilecca. Quello che sparò era quello più tozzo, era quello più tarchiato, e quello più tarchiato corrisponde a Cristiano Fioravanti. Mix 24, la storia. L'abbiamo accettato come un incidente di percorso, neanche un incidente, che probabilmente è stato anche voluto, probabilmente non è stato voluto il morto, però è stato cercato, quindi probabilmente l'abbiamo accettato, ci siamo passati sopra e siamo andati avanti. Bentornati su Mix 24, avete sentito Cristiano Fioravanti, assassino di Walter Rossi. Il suo omicidio è il segnale che anche l'estrema destra sta cambiando. I giovani hanno poco a che spartire con i nostalgici di Salò o con i fascisti in doppio petto. Per alcuni versi sono più vicini ai compagni di estrema sinistra, di cui condividono la carica eversiva, subendo come loro il fascino perverso della violenza. Mi sento corrio di tanti risultati, ma mi sento corrio anche del peggio che è successo, anche del sangue. Sono corrio politico, insieme a quella generazione insolito con quella, anche di quelle cose che, anche di tutto il disastro che c'è stato. Il disastro non solo di quello delle derive delle lotte armate, insomma, del seguito delle lotte armate, ma il disastro che è successo al nostro interno quando abbiamo cominciato a capire che non ce la facevamo, che stavamo perdendo. Il disastro che ha travolto persone vicine a me che si sono messe a sfondarsi di droghe. Mi sento corrio di tutto quello che è successo, ma non ci potevo fare niente, insomma, non potevo fare niente di diverso da quello. Così Henry De Luca. Ucciso a Roma il 9 febbraio dell'83, Paolo Di Nella è stato l'ultimo militante a morire di politica, la vittima numero 69 dell'elenco che non comprende i caduti per danni collaterali, i tanti genitori morti di dolore per non aver accettato la perdita di un figlio, i militanti che sopravvissero nell'immediato ad un'aggressione fisica. Il bilancio è pesante e non può che lasciare sgomenti, come conferma il magistrato Guido Salvini. Oggi la violenza politica fortunatamente è pressoché finita. L'avversario politico è tornato ad essere l'avversario e non più il nemico da colpire. C'è stata una metabolizzazione di questo concetto nell'enorme maggioranza dei giovani che vivono l'attività politica oggi. Certo, è difficile sulla violenza politica degli anni 70 avere una memoria condivisa delle due parti che l'hanno vissuta e che ne sono state vittime. Si può cercare però di avvicinarsi ad una storia condivisa, ad un riconoscimento delle ragioni dell'altro, e forse tutti dovremmo, con una certa amarezza, ma con un occhio distante ormai freddo, pensare che anche quei tragici momenti sono stati un punto di passaggio doloroso verso quella convivenza civile che per fortuna oggi tutti viviamo, e in questo senso dovremmo ricordare quei giovani caduti in quegli anni che hanno avuto la sfortuna di vivere in un momento in cui per tante ragioni il rispetto dell'altro mancava. Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. È E se vi siete detti, non sta succedendo niente.